Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È un last minute letterario quello di oggi, intanto però il quiz che è stato risolto con tre risposte esatte, anche molto precise, indiscutibilmente il primo Luca che avrà la possibilità di essere a teatro, come ho detto, entrata in coppia con amico, amica, fidanzata, fidanzato, fratello, sorella e quant'altro. Beh, sintetizziamo che non è esattamente il dono che mi appartiene. Due ingressi per Luca al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto per l'importanza dello zenzero. Risposta esatta: Sant'Agata, patrona di Catania e allo stesso tempo sede della Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, confinante con San Giovanni in Persiceto. La risposta esatta è appunto Sant'Agata, protettrice dagli incendi, dai danni del fuoco, dalle bruciature, insomma un po' in contrapposizione con Santa Barbara, se vogliamo, non che lei invece favorisse questo, però allo stesso modo invece aveva una grande attenzione per tutto ciò che potesse essere qualcosa di esplosivo e quindi di incendiario, non che lo favorisse, ci mancherebbe, non voglio essere blasfemo, sono due caratteristiche ben distinte tra le due sante. Sant'Agata comunque è la protagonista di oggi, questa passione per la vita dei santi, delle sante, beh, vi ha portato a teatro. Poi sono arrivate altre due risposte in contemporanea, due risposte ovviamente esatte, la possibilità era del 2+2, io cercherò di fare 2+2+2, così andiamo a teatro a San Giovanni per l'importanza dello zenzero. Sarete contattati dopo la diretta dal nostro ufficio che è responsabile appunto di comunicazione con il teatro di San Giovanni in Persiceto Fanin e sarete appunto portati a teatro per la giornata di venerdì 1 dicembre. Così abbiamo anticipato anche la rubrica In Scena. Intanto, bravi! Bene, bene, allora alla biblioteca Milcar Cabralla in via San Mamolo 24 ovviamente a Bologna, domani giovedì 30 novembre alle ore 19 Mark Andrew Levine sarà protagonista, lui musicista vincitore del premio Guggenheim, ha inciso ed è stato in tournée con artisti tra cui Mick Jagger per dirne alcuni, Dr. John, i figli di Fela Kuti, Seon e Femi Kuti, altri importanti artisti medio orientali e africani. E sarà la presentazione di un lavoro che porta insieme alla biblioteca Milcar Cabral per la conversazione di presentazione con Lucia Sorbera e Reda Zine nel iconico Heavy Metal Islam 2008, un lavoro diario di viaggio musicale attraverso 8 paesi dal Marocco, Pakistan. Mark Levine ha portato per la prima volta all'attenzione del mondo le esperienze delle culture underground giovanile che si erano sviluppate nei primi anni 2000 dal Nord Africa al Centrasia. Il libro In We'll Play Till We Die, l'autore ritorna sui suoi passi negli anni delle rivolte arabe dal 2010 e del 2011, quindi l'importanza della cultura musicale underground, del dialogo per i giovani, dell'espressione artistica culturale con queste sonorità. Beh, ho contattato Andrew Levine per avere dettagli ancora più precisi sul suo lavoro. Beh, notate l'inizio, no? Quando un intervistato ti mette a tuo agio. Sentite un po', io non ho mai parlato direttamente con Mark Andrew Levine. Beh, lui mi ha accolto così. Sentiamo le sue parole. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, come stai? Bene, e tu dopo tutto questo lavoro che hai portato, questo percorso tra musica, storie, persone, come stai? Well, sto bene, sono stato a Venezia anche per un discorso e a Roma e anche, non mi ricordo dove, ma ovunque in Italia. Ho cominciato l'anno scorso a Pisa e continuo adesso a Bologna, dove ce l'ho tanti amici, tanti colleghi, tanti compagni musicisti da 20 anni. E questo lavoro comunque ci porta ben oltre confine. Di cosa si tratta? Sono musicista. e anche sono un studioso. E quando sono stato in paesi come Iraq, Palestina, Israele, Libano, Iran, ho visto che quando sono stato cercando la storia per fare interview con militanti o attivisti, sempre ho scoperto che i musicisti hanno le idee più profonde, più importanti in paragone ai militanti o dirigenti religiosi. E piano piano ho cominciato a capire che sarebbe una buona idea di studiare la musica, la storia della musica contemporanea, specificamente la musica giovane estremi come metal, hip hop, rock, punk come questo, perché i musicisti sono all'avanguardia dei movimenti molto importanti per il futuro del questo paese. Ho scritto un libro, si chiama in italiano, il libro italiano Rock the Casbah, e in inglese originalmente Heavy Metal Islam, dove ho tratto la storia di questi tipi di musica nel mondo arabo, nel mondo musulmano, e anche le relazioni fra la musica e le politiche, le subculture e controculture, e finalmente possibilità di creare movimenti musicali, anche politiche rivoluzionarie. Sì, capito? Certo. E dopo 2010-11, quando era la primavera araba, ho visto esattamente come ha funzionato la musica nel momento di rivoluzione, e come successe dopo, quando erano le contro-rivoluzione e oppressione dei governi, come i musicisti continuano di provare di cambiare le sue società con la musica quando non era possibile di continuare con politiche dirette. Grazie Mark Andrew Levine, soprattutto per questa disponibilità. Tutti i lavori sono impegnativi, beh, paragonabile, anche se in realtà diverse, con il lavoro che prima svolgevo da elettricista. Ti trovavi in dialogo con un custode o con qualcuno che doveva collaborare. Buongiorno, mi scusi, sarei il tecnico, mi potrebbe dare le chiavi del quadro? Magari le chiavi del quadro le teneva in tasca, no? E ti rispondeva: ah, scusi, ma lei chi è? Al tesserino? No, non le posso dare io le chiavi, no, adesso non è, aspetti che faccio una telefonata. Ecco, vuol dire mettere a disagio in questo caso. Può capitare anche con un'intervista, fortunatamente difficilmente capita, ma capita anche in questo lavoro. Invece chi ne dà una grande disponibilità è stato un esempio, e che sia da esempio, Mark Andrew Levine. Mai visto, mai parlato, lo conoscevo come musicista. Buongiorno William, come stai? Ah, è stato veramente, ecco, questo è un atteggiamento tutti i tempi. Allora, biblioteca Amilcar Cabral, via San Mammolo 24, alle ore 19, quando domani, giovedì 30 novembre, il lavoro tradotto in italiano Rock the Casbah, che appunto, come ho detto prima, porta contenuti in realtà difficoltose per quelli che sono stati scontri dove i giovani hanno limitazioni veramente molto molto forti. Heavy Metal Islam 2008, come ho detto, tradotto in italiano col titolo Rock the Casbah, diario di viaggio musicale attraverso 8 paesi, dal Marocco al Pakistan. E conoscere queste sonorità, che per quanto riguarda una consapevolezza oltre che un contenuto artistico, indubbiamente arricchisce, oltre che stimolare nella ricerca musicale, dove non arriva, detto Mark, la politica, il dibattito e i governi, possono arrivare questi motivi di diffusione fusione con la musica e le note. Sentiamo la seconda parte di conversazione. Ribadisco che sarà domani, giovedì 30 novembre, Mark Andrew Levine, biblioteca Milcar Cabral in via San Mamolo 24 alle ore 19. E tu hai avuto prova che si può? Oh sì, certo, perché i musicisti arabo e musulmani in questi paesi hanno molto molto relazione forte con musicisti nel nord, nell'Europa, negli Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, anche perché ci sono tanti tanti musicisti arabi o irani nel diaspora, nell'Europa e anche nel Nord America, e era resti molto forte, sì, e questo ha iniziato negli anni 80, 90, sì, e specificamente quando ho cominciato con l'internet, social media, ha diventato più forte anche, e adesso è normale per musicisti arabo o irani, danese, di andare o di venire in Italia o in Germania per un grande festival come Roskilde o Glastonbury o Hellfest o Wacken Metal Festival. So, le relazioni sono più forti in paragone alla relazione fra i popoli più generali in queste culture. Certo, una domanda un po' difficile. Allora, hai trovato all'interno di queste sonorità che tu hai citato, rock, punk, heavy metal, hip hop anche, hai trovato che rapporto con la tradizione? Perché Medio Oriente, Oriente ha una tradizione musicale importante, insomma, ha una storicità ben diversa da quella occidentale. Che relazione hai trovato proprio musicalmente tra tutto ciò? Musicalmente c'è un fusion oggi che è quasi impossibile di dire che c'è un differente, gran differenza fra un hip hop, canzone hip hop, canzone metal che ha fabbricato in Egitto o Libano o Palestina o in Italia o Germania o Stati Uniti, perché tutti i musicisti hanno la stessa MacBook Pro, le stesse programmi per fare la musica, registrare la musica, Logic Pro X o Pro Tools come questo, utilizzano le stesse strumenti, le stesse stili, c'è tutti le genere, the styles or genre di rap o di metal che sono in Europa, anche sono nel mondo musulmano, mondo arabo, mumble rap o come questo, anche la musica d'Africa come Afrobeat, che è molto conosciuto, sì, molto popolare, certo, adesso anche c'è nel paese arabo. So c'è fusione fra tutti gli stili di musica nel mondo adesso. È molto facile per i musicisti di andare da un paese a un altro paese, un paese arabo a paese africano a paese europei, e lavorano insieme. Ed anche per questo ovviamente che c'è poi la possibilità di cui abbiamo parlato poc'anzi, grazie alla musica. Sì. Questa è sì, un'anticipazione. No, certo. Questa è un'anticipazione perché i contenuti saranno diversi, come tutti i paesi che ha toccato il nostro protagonista, autore del lavoro che verrà presentato alla biblioteca Milcar Cabral in via San Mamolo 24, giovedì 30 novembre alle ore 19, Mark Andrew Levine, che io ringrazio tantissimo per questa presentazione. E appunto avremo modo di incontrarci anche dal vivo per ascoltare queste tue esperienze. Grazie Mark. Grazie. Ed eccolo qua un po' di Afrobeat, ovviamente a commento che è stato citato al termine della nostra conversazione. Come ho detto, per me signorilità, disponibilità, educazione, gentilezza, accoglienza prima di tutto. Quindi grazie, oltre che per il prezioso lavoro, grazie anche per questa conversazione a Mark Andrew Levine, che sarà domani in via San Mamolo 24 alle ore 19, biblioteca Milcar Cabral. E il nostro Last Minute termina qui, pubblicità e a breve il voltiamo pagina. E intanto ne approfitto, 333-180-9494, due libri per voi in premio, già con noi Silvia Albertazzi in redazione e tra pochissimo in diretta.